dei nostri Ministra, cittadini, lei avrà visto l'appello lanciato da varie associazioni, ne parla oggi Luigi Manconi su Repubblica, c'è anche Terra, Don Luigi Ciotti, per i braccianti che si trovano nei ghetti, mettete in sicurezza quei ghetti. E l'altro tema forte, c'è una carenza di lavoratori perché tutti i lavoratori stagionali, appunto temporanei, che stavano all'estero non possono tornare in Italia. Guardi, io l'ho già detto in varie iniziative pubbliche e ho dichiarato su questo perché sono fermamente convinta. Ringrazio la ministra Lamorgese per aver prorogato i permessi di soggiorno che scadevano tra il 31 gennaio e il 15 aprile al 15 di giugno. Stiamo facendo una mappatura per quello che serve nelle prossime campagne di raccolta che sono imminenti e c'è bisogno di un maggiore numero di manodopera, e ho detto che questo paese deve avere il coraggio di invertire la narrazione che ha fatto fino a pochi giorni fa. Gli immigrati non sono i nostri nemici. Oggi ci sono ghetti che sono pieni di persone dove si sta accumulando fame e si rischia di accumularsi anche rabbia. Noi dobbiamo dare a queste persone la possibilità di uscire dai ghetti e di aiutarci. Come farete a fare però materialmente, Ministra? Come farete? Assumendosi tutti la responsabilità di mettere in campo un'azione di regolarizzazione di queste persone. Questo è quello che propone la Ministra dell'Agricoltura e io spero che su questo regolarizzare i braccianti polemica, che si trovano nei ghetti. Questo dare sta dicendo. Risposte concrete. Regolarizzare i braccianti che si trovano nei ghetti, Ministra Bellanova, questo ci ha detto. C'è un altro modo, diciamo, in un momento in cui è bloccata la mobilità, in un momento in cui persone che venivano per esempio dalla Romania, da altri, dalla Polonia, e venivano a lavorare nelle aziende del nord, nelle fasi di raccolta, e che per paura di essere messi in quarantena all'arrivo o al rientro hanno deciso di non accettare più questi contratti stagionali, come si può risolvere il problema se non andando a dare una risposta a persone che magari nei mesi passati, negli anni passati, hanno lavorato in nero nelle nostre campagne e non solo nelle nostre campagne.